sono riuscito mai a farti capire quello che volevo. Non era mai il momento giusto per aprire bocca e sento il vuoto. E ora vuoi parlare solo quando senti che ti faccia bene. Mancheranno queste cose, tutte quelle cene insieme, i voli presi, le cascate, le ore in macchina a guidare. E fumavi sul balcone tutte quelle sere per non litigare. Sai che non mi piace, preferisco stare qui a guardare. Male. Ero pronto a mettermi continuamente in discussione fino a dimenticarmi di me stesso. Dimenticarmi di me stesso. La notte sembra un inferno, voglio ancora averti a meno di un soffio. Manca l'aria quando mi guardi e senza una parola ti prendi tutto, tutta la paura. E tu mi scivoli addosso, ora sei acqua passata. Ci siamo persi. Come radici in cerca della luna. Sai pure tu che questa storia non ci fa più bene. Se le tue bugie sono l'unica cosa che mi dai da bere. La notte sembra un inferno, vai ancora averti a meno di un soffio. Luna.